Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Il sesto membro dell'equipaggio del Discovery non ha dovuto essere messo in condizione di ibernazione, perché in realtà è l'ultimo ritrovato in fatto di macchine pensanti. Il calcolatore HAL 9000, che può riprodurre, alcuni esperti preferiscono la parola imitare, la maggior parte delle attività del cervello umano, con una velocità e una sicurezza incalcolabilmente maggiori. Avete appena sentito una clip di 2001 Odissea nello spazio, in cui compare il primo discorso cinematografico sull'intelligenza artificiale, ovvero il supercomputer HAL. L'intelligenza artificiale, fra poco, forse già oggi sarà realtà, però non ha niente a che fare con l'autocoscienza cinematografica di HAL, non ci sarà nessuna autocoscienza. Si tratta invece di un enorme incremento delle capacità di calcolo e di elaborazione, che verrà messa a disposizione dell'uomo e avrà degli effetti enormi nella produzione, cioè ci sarà quella che chiamano più correttamente intelligenza aumentata, che renderà le azioni dell'uomo più efficaci e più efficienti, quindi aumenterà la produttività, aumenterà la ricchezza creata. Quello che pochi sanno di tutto quello che è il dibattito sull'intelligenza artificiale è che aumentando la ricchezza e aumentando la produttività sarà favorevole e non sarà un impatto negativo sulle società in cui insiste. Perché vi parlo di intelligenza artificiale in un programma dedicato alla fabbrica? Perché uno dei problemi fondamentali dell'Italia da un sacco di tempo è la bassa produttività. Sono appena usciti dei dati dell'Eurostat che dicono che nel 2016 l'Italia è comunque ancora in calo di produttività rispetto agli altri paesi, e questo nonostante la rivoluzione 4.0, che forse però deve ancora venire. Personalmente, avendo studiato queste cose da una vita, io ritengo che uno dei modi per risolvere il nostro problema della bassa produttività, che è drammatico storicamente, è proprio quello di investire nelle tecnologie che vanno sotto il cappello 4.0, quindi intelligenza artificiale in primis, automazione, robotica, interconnessione, Internet of Things, e chi più ne sa più ne canti. Comunque, il nostro ospite di oggi è un imprenditore che fa delle cose avanzatissime nel settore delle valvole. Fa microvalvole con la sua azienda che si chiama Fluidotech, che possono anche spruzzare 10.000 gocce al secondo, e volevamo parlare con lui di queste cose. Lui è Diego Andreis, e buongiorno. Buongiorno. Allora, poi vediamo i dati. C'è un calo della produttività nel 2016, ma in genere sono 20 anni che questo paese è poco produttivo. Lei pensa che le nuove tecnologie 4.0 possano essere una soluzione? Indubbiamente avranno un impatto. Non è chiaramente sufficiente portare all'interno della fabbrica nuove macchine, connetterle. Bisogna imparare chiaramente a estrarre valore. Questo prende tempo. L'intelligenza artificiale è una delle dimensioni tecnologiche fondamentali, perché chiaramente quando aumentano questi oggetti connessi alla rete, si parla che nel 2020 avremo 26 miliardi di questi oggetti connessi che sentano, imparano e collezionano un'enorme mole di dati, per cui la grande sfida sarà quella proprio di mettere insieme, apprendere, costruire su questi dati. Quindi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e in generale della potenza di calcolo diventa estremamente rilevante. Certamente. Io vorrei sapere l'opinione dei nostri ascoltatori su questi argomenti. Potete scriverci a fabbrica@radio24.it che cosa pensate dell'intelligenza artificiale e che cosa pensate della bassa produttività del sistema italiano. Inoltre, io vorrei per alcune puntate portare avanti l'argomento della puntata della scorsa settimana, che era sulla fusione nucleare e su questa azienda che fa questo supermagnete che potrà contenere temperature di 150 milioni di 1,5 milioni di gradi. Che cosa ne pensate della fusione nucleare e che cosa ne pensate di queste sperimentazioni? Ditecelo a fabbrica@radio24.it e i migliori interventi saranno letti in trasmissione. Senta una cosa, comunque, a proposito di produttività, Il settore metalmeccanico di cui lei è esponente è uno di quelli che hanno sofferto di meno. Allora, i dati del 2016 parlano di una minor sofferenza perché il paese ha sofferto una riduzione dello 0,8 della produttività, il metalmeccanico dello solo 0,1. Noi arriviamo però da 10 anni che ci hanno sostanzialmente massacrato, che hanno visto un incremento dal 2008 al 2016 del 18,7% del costo del lavoro, con una produttività che è aumentata dell'8,4%, per cui determinando un incremento, un gap di 10 punti di quello che si chiama il CLUP, quindi il costo del lavoro per unità di prodotto, che è per noi la misura più importante di competitività. Senta, lei è l'amministratore delegato di questa azienda fantastica di cui abbiamo già parlato, che fa questi prodotti che sono dei gioielli, più che altro li paragonerei a degli orologi per la loro precisione, ma lei è anche attivo come presidente del gruppo Meccatronici di Assolombarda, come vicepresidente di Federmeccanica, addirittura presiede l'industria meccanica europea. La meccanica sta diventando meccatronica, che cosa significa? Sì, noi stiamo vivendo questa quarta rivoluzione industriale osservando sostanzialmente questa convergenza tra meccanica, elettronica e informatica, in generale tra meccanica e digitale. Nonostante questo, stiamo comunque vivendo un gap di percepito tra quello che l'industria sta facendo, quindi questa grandissima trasformazione, invece il percepito verso l'esterno, che ancora associa al nostro settore il concetto di metalmeccanica e di industria un po' archetipata e ferma. E questo, la conseguenza di questo è che vediamo che abbiamo da una parte 37% di disoccupati giovanili tra i 15 e i 24 anni e da parte delle aziende un 65% di difficoltà di reperimento di risorse nelle discipline tecnico-scientifiche, per cui sembra che effettivamente che i giovani non si capisce se effettivamente scelgano consapevolmente di prendere percorsi sbagliati o siamo noi a comunicare in modo sbagliato effettivamente questo percorso e il fascino oggi della nostra industria. Per cui la meccatronica sostanzialmente e questo progetto di riposizionamento culturale vuole proprio ripartire certo, da lì. Certo, è fondamentale un riposizionamento culturale perché i media e la politica ancora trasmettono l'idea di un paese basato sul cibo e sui vestiti e sul turismo. Noi non siamo questo. Il cibo, i vestiti e il turismo arriveranno a coprire una parte minima del nostro fatturato e a mantenere una parte veramente minima del nostro paese. Invece pensate che la meccanica, che sta diventando meccatronica, dà lavoro a 1,6 milioni di persone, 400 miliardi di fatturato, il che vuol dire un quarto del PIL italiano, 200 miliardi di export, 100 miliardi di valore aggiunto e proprio il cuore di tutto lo sviluppo tecnologico. Quindi questo settore in realtà è superiore rispetto agli altri, anche se non c'è la cultura per capirlo perché ancora si pensa alle tute blu. Ma ne parleremo nella seconda parte della trasmissione. Intanto avvisi sul traffico. Indagati, calo del PIL, Trump che litiga con Kim. Oh, certo che i giornali non ci aiutano molto a trovare buone notizie per fare un programma ottimista. No, Carlo, guarda, c'è anche il cuoco che cucina per i poveri, questa promettente startup di giovani studenti e un politico onesto. Oggi, domani si vedrà. Va bene, ma è convinto, si può fare davvero. Sabato iniziamo alle 7.30 e domenica alle 8. Presto, questa è una buona o una cattiva notizia? Ottima, io non vado neanche a letto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Sabato dalle 7.30 alle 9 e domenica dalle 8 alle 10 su Radio 24. Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia. Di Filippo Astone. Eccoci in linea, stiamo parlando con Diego Andreis della Fluidotech, della meccatronica e anche di come potrà creare maggiori posti di lavoro e opportunità di occupazione, perché così, no, ingegnere Andreis? Sì, assolutamente, tra i dati che citava prima ne aggiungo uno, ossia che il comparto meccanico oggi è responsabile per il 72% degli investimenti in ricerca e sviluppo dell'intero comparto manifatturiero e 55%. Il 72% degli investimenti in ricerca e sviluppo dell'intero comparto manifatturiero e 55% dell'intera economia. dove la ricerca e sviluppo è chiaro e deve essere chiaro che è in assoluto il motore dello sviluppo in un paese industrializzato come il nostro. Quindi il progetto Meccatronica o Italia Meccatronica nasce proprio con l'obiettivo appunto di fare questo settore, perché per cavalcare questa trasformazione abbiamo bisogno, i giovani, di essere attrattivi, di coinvolgerli, per fare di questo settore la prima scelta per i nostri giovani, promuovendo un cambio culturale, creando un senso d'urgenza su tutti gli attori coinvolti. Ma questo secondo me è fondamentale, perché la coscienza di quanto è importante la meccanica che ci sta dando da mangiare a tutti noi non c'è, c'è un bombardamento sulle frivolezze, sulle cose frufru. Tra l'altro, secondo me, uno dei motivi per cui c'è un gap di retribuzione di carriera fra uomini e donne non è tanto la discriminazione, sulla quale ci sarebbe molto da discutere, ma è il fatto che le donne non scelgono facoltà ingegneristiche e tecnico-scientifiche, che sono quelle che danno poi l'accesso alle migliori opportunità di lavoro e di carriera meglio retribuite, no? Lei non è d'accordo? Sì, in assoluto. Tra l'altro stanno uscendo numeri e statistiche, perché stiamo lavorando anche su questo, che stanno dimostrando che di fatto le donne sono anche più qualificate degli uomini all'interno di questo tipo di lavori nelle materie tecnico-scientifiche. Ma indubbiamente, solo che non si iscrivono al Politecnico, è questo il problema. Assolutamente. Noi tra l'altro abbiamo fatto anche con Fondazione Pubblicità Progresso proprio una campagna sociale per rivalutare il ruolo del lavoro e della fabbrica, che assolutamente non ha più barriere di genere. Oggi le nuove fabbriche sono aziende in cui lavorano persone iperqualificate, senza appunto barriere di genere, che sostanzialmente progettano e governano macchine complesse, interconnesse, che producono gli stessi particolari meccanici precisissimi di sempre, ma in modo completamente nuovo. Ecco, lei queste cose tra l'altro le ha appena raccontate al TEDx. Le abbiamo raccontate recentemente in questo continuo tentativo per riposizionare culturalmente il nostro settore verso i giovani, ma anche verso le famiglie, verso l'opinione pubblica più in generale, per raccontare questa trasformazione che stiamo facendo, ma soprattutto raccontarla in modo nuovo. L'abbiamo raccontata a TED, l'abbiamo raccontata anche poco tempo fa al Teatro Streller di Milano, dove l'abbiamo fatto parlando di futuro, di giovani, ma anche di arte e di bellezza. Volevo tornare al concetto dell'intelligenza artificiale, perché siccome c'è tutta una falsa rappresentazione, sembra che l'intelligenza artificiale e l'automazione distruggano posti di lavoro, emarginano l'uomo, si sentono un sacco di luoghi comuni che, consentitemi di dirlo, sono solo stupidi, e io non ne posso più di leggere e di sentire questi luoghi comuni. E certo, sono aperto alle vostre email fabbrica@radio24.it, ma non mandatele su queste sciocchezze, perché non verranno lette. Torniamo all'intelligenza artificiale. C'è una ricerca di Accenture che dice cosa succederebbe se venissero fatti importanti investimenti in intelligenza artificiale, e stima quanto aumenterebbe la produttività dei singoli paesi investendo in intelligenza artificiale. E la stima è relativa al 2035. Dunque, pensate un po' che la produttività dell'Italia crescerebbe del 12%. Che è una cifra importante per un paese come il nostro, che non è produttivo manco per il cavolo, ma è inferiore alla produttività stimata per la Francia, che è del più 20%, per la Germania, che è del più 29%, e per gli Stati Uniti, che è del più 35%. Inoltre Accenture arriva a stimare il tasso di crescita del valore aggiunto lordo in alcuni paesi nel 2035 con e senza intelligenza artificiale. Dunque, il tasso di crescita medio del valore aggiunto italiano senza l'intelligenza artificiale sarebbe dell'1%, con l'intelligenza artificiale sarebbe dell'1,8%. Invece, per paesi che hanno un'infrastruttura più pronta, come gli Stati Uniti, senza intelligenza artificiale il tasso di crescita medio degli Stati Uniti sarebbe del 2,6%, con l'intelligenza artificiale sarebbe del 4,6%. Comunque, perché queste cose si sviluppino, è importante che si facciano investimenti nella ricerca. A questo proposito, lei, Andrei, aveva fatto una proposta, no? Sì, per me la ricerca è alla base di tutto, questo è quello che abbiamo dimostrato anche in azienda, dove stiamo crescendo bene, crescendo molto bene, e alla base di tutto c'è proprio la ricerca. Noi abbiamo addirittura creato un centro separato, un luogo separato, un'impresa della conoscenza dove facciamo, esattamente, dove facciamo questo e pensiamo al futuro. Ora, per fare questo bisogna fare giusto, ripartire gli investimenti. Ma gli investimenti sulla ricerca per me sono più importanti di ogni altra cosa. La ricerca va fatta internamente, indubbiamente, ma bisogna anche farla con l'esterno. Quindi il rapporto, per esempio, il rapporto con università e centri di ricerca. Per cui io, se dovessi decidere l'allocazione dei denari per far ripartire il paese, metterei una fortissima priorità sulla ricerca e sviluppo, con una decontribuzione totale di qualsiasi spesa in ricerca e sviluppo, con un incentivo magari addirittura oltre il 100%, una sorta di superammortamento, per usare un termine. Un superammortamento sulla ricerca e sviluppo sarebbe necessario, però per la seconda fase del pacchetto Calenda si pensa invece solo a un superammortamento sulla formazione. La formazione è fondamentale, perché la persona è al centro di questa quarta rivoluzione industriale, per cui la formazione e la crescita delle persone va di pari passo con la ricerca, perché la ricerca non è soltanto la ricerca sul prodotto, è la ricerca sul processo, perché quando porto all'interno queste nuove macchine complesse, connesse, non è sufficiente, il valore non si genera in quel momento, ma si parte da lì, e per cui la formazione e le competenze servono per fare veramente il salto di qualità e arrivare a generare quel numero di produttività che generava prima, perché quando poi vengono generati questa grandissima mole di dati, io devo sapere che cosa farne. Ecco, il tema dell'intelligenza artificiale, intelligenza aumentata, è molto legato a queste macchine connesse che ci saranno nell'industria, perché queste macchine raccoglieranno un sacco di dati, milioni, miliardi di terabytes, e bisognerà avere un'intelligenza aumentata per analizzarli. Però è ora di finirla con l'immaginario terroristico, con l'idea che l'uomo verrà sostituito e altre stupidaggini. La verità è che l'unica speranza di ripresa di questo paese sta in queste tecnologie. Comunque, in chiusura di programma, vorrei farvi sentire una breve scheda su che cos'è esattamente l'intelligenza artificiale o intelligenza aumentata. Ma che cos'è davvero l'intelligenza artificiale? Al di là dei film di fantascienza, una definizione potrebbe essere che si tratta della disciplina che studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche per progettare sistemi hardware e software molto particolari. Sistemi tali da conferire a un computer prestazioni che a un osservatore non esperto potrebbero sembrare di pertinenza esclusiva dell'intelligenza umana. Lo scopo dell'intelligenza artificiale non è quello di replicare l'uomo, ma di riprodurne o emularne alcune funzioni. Nel caso dell'emulazione, le prestazioni sono ottenute utilizzando meccanismi propri della macchina. E comunque gli hardware e i software coinvolti sono ancora ben lontani da autocoscienza, creatività, ironia, capacità autonoma di gestione di movimenti complessi come quelli di una mano. Terminator e Blade Runner sono solo film. In buona sostanza, l'intelligenza artificiale aumenta esponenzialmente le capacità di calcolo ed elaborazione e le mette a disposizione dell'uomo. Non a caso, tanta parte dell'intelligenza artificiale si basa su algoritmi, termine che evoca complessità esoteriche, ma che in buona sostanza non significa altro che schema di calcolo. E un protagonista dell'high-tech come IBM preferisce parlare di intelligenza aumentata più che di intelligenza artificiale. Il concetto di intelligenza aumentata è particolarmente efficace. Significa che si accrescono le capacità dell'uomo e quindi la sua produttività, ma l'uomo stesso rimane al centro. Da quando si è iniziato a parlare di intelligenza artificiale, gli studiosi hanno valutato volta per volta diversi modelli della razionalità umana, scegliendo quello più opportuno. I modelli di razionalità adottati sono stati sia di tipo antropomorfico, come le reti neurali, sia di tipo non antropomorfico, con l'obiettivo di garantire i migliori risultati possibili. E in molti casi, i modelli non antropomorfici sono stati quelli più efficaci e di maggior successo. Rieccoci. Allora, ingegnere Andrei, se lei che cosa ne pensa? Guardi, per me il lavoro non ce lo rubano i robot o l'intelligenza artificiale, ma un'istruzione inadeguata. Abbiamo parlato prima del gap che c'è tra disoccupazione e necessità effettivamente da parte delle imprese. Oggi abbiamo un sistema scolastico che non ha reagito all'evoluzione dei tempi. Oggi il contesto richiede sempre di più creatività, capacità di risolvere problemi. A scuola si vede molto poco di tutto questo. Abbiamo bisogno che i nostri ragazzi vengano esposti sin dall'inizio e fatti sperimentare con tecnologie come Internet of Things, intelligenza artificiale, blockchain, robotica, big data, stampa 3D, tutto insieme a letteratura, matematica, certamente. E questo lo stesso dobbiamo prendercelo come responsabilità degli imprenditori, perché l'impresa è anche scuola, per cui impresa, scuola e giovani, questa è una responsabilità di tutti. Certamente, dobbiamo chiudere, diteci che cosa ne pensate a fabbrica@radio24.it. Buon sabato a tutti, viva le fabbriche, viva l'acciaio, viva i robot!